The following short God will hopefully capture the main topic for this 10-day retreat period, namely, as quoted from the 22nd collection of the Samyutta Nikaya, Discourse 100. Often, O monks, or nuns, or lay retreatants, should one reflect upon one's own mind thus. Quindi la seguente gata coglie quello che sarà il tema il principale per questo ritiro. Can you please repeat the... Often, O retreatants, should one reflect upon one's own mind thus. Spesso, meditanti, è opportuno riflettere sulla propria mente in questo modo. For a long time has this mind been defiled by greed, by hatred, by delusion. Per lungo tempo questa mente è stata inquinata dalla avidità, dalla avversione o rabbia e dall'illusione. Mental defilements make beings impure, mental cleansing purifies them. Gli inquinanti mentali rendono gli esseri impuri e mentre mental defilements make beings impure, mental cleansing purifies them. Mentre la purificazione mentale rende gli esseri puri, li purifica. Now, what we have here are the, with greed, hatred and certain delusion, the so-called three roots of all unwholesomeness, akusala mula in the Pali scriptural language. Quindi con la brama, l'avversione e l'illusione abbiamo la radice e le tre radici di tutta la non salutarità. The Buddha has also spoken of three roots of wholesomeness, and those then contrast with the three given so far. And those three roots of wholesomeness are non-greed, non-hatred, and non-delusion, alobha, adosa, amoha, in the Pali scriptural language. Il Buddha ha anche parlato delle tre radici della salutarità che contrastano le corrispondenti tre radici della non salutarità. E queste tre radici sono la non brahma, la non avversione o non odio e la non illusione. It is in the context of the Satipatthana practice, namely the establishments of mindfulness, that we shall explore both those three roots of unwholesomeness as well as the three roots of all wholesomeness. Nella pratica di Satipatthana, cioè dei fondamenti della consapevolezza, dovremmo esplorare queste sia le tre radici della salutarità e sia le tre radici della non salutarità. It is stated in the texts that the practice of Satipatthana leads to the attainment of purity, of knowledge and nibbana. Sì, si dice nelle scritture che la pratica di Satipatthana porta alla purezza, alla conoscenza. Nibbana. e al Nibbana. Now, the first among those certain qualities, namely purity, is of a great certain importance. Without purity, the realization of Nibbana will not be possible. Questa prima qualità, quella della purezza, è di un'importanza fondamentale, primaria. Infatti, se in assenza di purezza, non è possibile raggiungere, ottenere il Nibbana. Now, obviously, when we speak of purity here, then meant is purity of especially the mind, but then also purity in terms of verbal conduct and in terms of bodily conduct. E in questo contesto, quando parliamo di purezza, ci si riferisce in primo luogo ovviamente alla purezza mentale della mente, ma anche alla purezza della condotta verbale e fisica. And I would like to encourage all of you from the very, very beginning of this retreat until the very end to work towards an ever greater purity of mental conduct, of verbal conduct, of physical conduct. And it can be done. E vi voglio invitare e sollecitare a impegnarmi ad avere una purezza sempre maggiore dall'inizio fino alla fine del ritiro in termini di condotta mentale, verbale e fisica. And so it is certain through three forms of training, namely the training in virtue, in ethical conduct, the training in concentration, as well as the training in wisdom, that we gradually achieve more and more of that purity. E attraverso questo triplice addestramento di addestramento nella morale e nella concentrazione e nella saggezza che si sviluppa una sempre crescente purezza. Now, among the three trainings, the training in virtue is mentioned first because it represents the foundation for the training in concentration and the training in wisdom. E di questi tre addestramenti viene menzionato prima l'addestramento nella virtù, perché questo costituisce la base per i successivi addestramenti della concentrazione e della saggezza. Now, training in virtue it may take on different forms. Some retreatants might choose to observe the five precepts. Others will observe the eight precepts. Then one could even observe the ten precepts. And for the monastics, they typically observe their respective monastic vows. L'addestramento nella virtù può prendere diverse forme, si possono in un ritiro si può scegliere di seguire i cinque precetti o gli otto precetti, ma si può anche scegliere di seguire dieci precetti e per i monaci invece si tratterà di seguire le rispettive regole monastiche. Now, society without ethical guidelines, without certain ethical conduct, most likely would be very, such a society would be very immoral. Una società in cui non ci siano delle linee di condotta morale sarà molto probabilmente una società in cui una società immorale. And under those circumstances, people would probably just do and say and think whatever they like without consideration for others, whether this is harming others or not, even without consideration, without considering whether this is harming oneself. E in questa situazione probabilmente le persone farebbero, direbbero qualunque cosa vogliano senza preoccuparsi, senza curarsi di come queste azioni verbali o fisiche possano danneggiare gli altri e anche danneggiare se stessi. So virtuous certain conduct derives from a basic sense of certain humanity, and the Buddha has certainly given a very useful tool to check whether an action planned is ethically correct or not, namely, to before doing anything or saying anything, to put oneself in the other person's shoes and suddenly then to reflect, would I like it if someone would come along and would maltreat me or mistreat me, would maybe torment me, would even take my life? Or would I like it if someone else were to come and suddenly take away my property or interfere in a current ongoing relationship? So things like this. E quindi questa l'etica deriva da un senso basilare di umanità, e il Buddha ci ha dato uno strumento molto, molto semplice per verificare se un'azione verbale o fisica è eticamente corretta oppure no. E si tratta di mettersi nei panni dell'altra persona e quindi, prima di intraprendere un'azione, chiedersi: mi piacerebbe se mi piacerebbe se una persona mi insultasse o mi ferisse o se una persona si appropriasse delle mie cose o interferisse in una mia relazione con un'altra persona. And just like her one will not like it if one's life gets threatened, etc. Well, so too others will not like it either. And so by putting oneself into another person's shoes, one then comes to the conclusion, what I would not like to happen to me, others will also not certainly want to happen to them. And thus one refrains from such actions. Quindi, così come a me non piacerebbe che la mia vita fosse minacciata, nemmeno agli altri sarebbe gradita questa cosa. E quindi, mettendosi nei panni degli altri, comprendendo che cosa non è gradito, a questo punto questo serve per frenarsi da commettere una certa azione. Now, among the precepts that we have, the fourth one of not speaking, not indulging in falsehood, and noble silence becomes satna, the appropriate form of satna, right speech, at least during the time of an intensive retreat. Il quarto dei cinque precetti riguarda il non astenersi da dall'indulgere nella falsità, quindi in una parola falsa, non veritiera, e questo precetto nel contesto di un ritiro prende la forma del nobile silenzio. Now, when it comes to sexual activities during an intensive retreat, we want to refrain from those in any form. So even if we've come on retreat together with a spouse or partner, we want to refrain from it. We also want to refrain from any form of sexual abuse. E per quanto riguarda la condotta sessuale durante un ritiro, ci si astiene da qualunque forma di attività sessuale, quindi anche se si viene ad un ritiro con il proprio compagno o la propria compagna, ci si asterrà da qualunque forma di attività sessuale, e così si vuole anche astenersi da ogni forma di abuso sessuale. Now, the sixth out of the eight precept is the one that states to refrain from taking solid food after 12 o'clock midday. And that certain precept, as Jani has pointed out, is helpful. We may find that by not taking a heavy meal in the evening, we will not have to deal with the subsequent drowsiness, and our sexual appetite also will not be strengthened through that evening meal. Il sesto precetto richiede di non assumere cibo solido dopo mezzogiorno e come ha già illustrato Gianni, questo possiamo scoprire che questo è molto utile per la pratica, quindi non avere una cena, un pasto pesante la sera ci evita la successiva, la conseguente sonnolenza che può sorgere ci risparmia, diciamo, di sollecitare, di rafforzare il desiderio sensoriale. No. Being on retreat, meditating is a particular activity that is best done by deliberately refraining from social activities such as dancing, singing, playing instruments, and enjoying any form of entertainment. Those are things we can do outside of retreat, but not during an intensive retreat. E durante un ritiro si beneficia anche dall'astenersi da qualunque attività sociale e di intrattenimento, come danzare o ascoltare musica, eccetera, e queste sono cose che possiamo fare fuori da un ritiro, ma non durante un ritiro. Now, part of the seventh precept, the second part, consists in, again, voluntarily refraining from beautifying oneself. So by not wearing garlands, by not using cosmetics, perfumes, and ornaments, things, those are activities that if we use them, that typically are meant to attract others' attention. But we're not here to interact socially, to impress each other, to tempt each other, but we're here to purify the mind, and thus those activities can fall away. La seconda parte del settimo precetto richiede di astenersi da volontariamente astenersi da qualunque attività che sia volta all'abbellimento della persona, quindi vestire, indossare degli ornamenti, truccarsi o indossare degli abiti particolari, tutte cose che normalmente si fanno per attirare l'attenzione degli altri. Ma non siamo qui per socializzare e per quindi apparire, attirare l'attenzione degli altri, siamo qui per purificare la mente, e quindi tutte queste azioni possono essere lasciate andare. Now, the eighth precept states that we refrain from the use of high luxurious seats and beds, and most likely the reason for this is to avoid the arising of pride or conceit. L'ottavo precetto invece richiede di astenersi dall'utilizzare seggi e letti alti e lussuosi. E questo è volto ad evitare il sorgere di orgoglio e presunzione o arroganza. No. One of the benefits that certain comes with carefully, meticulously observing an ethical code of conduct is expressed in Dhammapada verse 217. Uno dei benefici che deriva da seguire una buona condotta morale è descritto nei versi del Dhammapada 207. Now, he or she who is endowed with virtue and insight, who is established in the Dhamma, chi è dotato di endowed with virtue and insight, con quindi chi è dotato di virtù e di insight, chi è stabilito, established in the Dhamma, stabilito nel Dhamma, who has realized the truth and performs his or her own duties, che ha realizzato la verità e che compie, svolge i suoi compiti, i suoi doveri, and is loved by all men and women, è amato da tutti gli uomini, da tutte le donne. Society does recognize the purity of a person as an important quality, as well as the development of certain intuitive insight. Quindi la società riconosce l'importanza della purezza di un individuo, così come anche dello sviluppo dell'insight. Those who do lead a life of certain purity and of certain insight, the development of insight, that knowledge, eventually turn out certain to be role models for society, and as a result of this, are being greatly will be appreciated. Coloro che hanno seguono una buona condotta morale e che sviluppano insight saranno poi dei modelli per la società. Sorry, so there will be role models for society in terms of virtue and insight knowledge. Sì, quindi saranno dei modelli per la società nei termini appunto della virtù e della conoscenza di insight. No. With a training in virtue, which will be part of what we're practicing here during the next 10 days, what will happen is there will be a cultivation, a refinement of our verbal conduct and our bodily conduct. Those two. Con l'addestramento della virtù che praticheremo nei seguenti 10 giorni, avremo come risultato un raffinamento della condotta verbale e fisica. Now, this is good but not good enough, and satna, the mind still remains satna to be purified. Questo è bene, ma non è abbastanza. E infatti la mente deve essere purificata ulteriormente. So even though one is observing the 5 precepts or 8 precepts, mentally one might still think an awful lot of unwholesome things. Quindi anche se una persona sta seguendo i 5 o gli 8 precetti, mentalmente è possibile che stia ancora pensando molti pensieri non salutari. No. As we will be observing predominant objects of observation in our meditation practice, with this gradually the mind will become more and more focused on the objects, more and more one-pointed on the various objects, and as such, concentration will arise. Nella pratica meditativa, man mano che concentriamo, focalizziamo la mente sul salire e scendere dell'addome, la mente man mano si calmerà e diventerà sempre più concentrata, svilupperà concentrazione e svilupperà la focalizzazione su un unico punto. No. The arising of a certain degree of concentration will be important, especially when the hindrances arise in the practice. The hindrance of sense desire, of ill will, of sloth and torpor, of restlessness and remorse and skeptical doubt. Lo sviluppo di concentrazione sarà importante, specialmente quando nella pratica sorgeranno i 5 ostacoli, quindi l'ostacolo del desiderio sensoriale, della malevolenza, del torpore, dell'irrequietezza, del rimorso e del dubbio scettico. No. In the presence of concentration, those hindrances will be suppressed. That means that they still linger on in the mind, but at least they are not active for the time being, as long as concentration is there. Quando c'è concentrazione, proprio attraverso la presenza della concentrazione, questi 5 ostacoli sono soppressi. Questo significa che sono ancora presenti a livello latente nella mente, ma nel momento presente in cui c'è concentrazione, essi non si manifestano. So those certain hindrances will be temporarily suppressed, and certainly with this, what we gain is a degree of some degree of mental purity, but it's not going to be perfect as yet. Quindi questi ostacoli sono temporaneamente soppressi e si otterrà un certo livello di purezza, che non è però una purezza, non sarà però una purezza definitiva. What remains in terms of impurity of the mind are the so-called latent or dormant mental defilements. And those will have to be addressed through the practice of Satipatthana, and in particular through the development of intuitive wisdom. Ciò che resterà saranno gli inquinanti mentali latenti, e verso questi si dovrà indirizzare con la pratica della Satipatthana e della conoscenza intuitiva. The Venerable Mahasi side of Burma has certainly given rather concise certain meditation instructions on how to do the practice, and what I shall do is give you just the very, very gist of those so that you have something to work with until tomorrow morning at 8 o'clock. Sorry, you said Mahasi Sayadaw? Yeah. Quindi Mahasi Sayadaw ha dato delle istruzioni molto concise su come condurre la pratica meditativa, e vi offrirò queste indicazioni e su queste vi baserete fino a domani mattina. And so, of course, certainly the meditation instructions as put together by the Venerable Mahasi Sayadaw are based on the Buddha's instructions, especially the instructions given in the Satipatthana Sutta. E le istruzioni che Mahasi Sayadaw ha elaborato sono basate sulle istruzioni che ha dato il Buddha stesso, in particolare nel Satipatthana Sutta. No, the Samyutta Nikaya contains the so-called Ambapadi Sutta, and that discourse gives the synopsis of the Satipatthana instructions. Nella Samyutta Nikaya c'è un sutta chiamato Ambapadi Sutta. Ambapadi Sutta, in cui c'è una sintesi delle istruzioni che sono presenti nel Satipatthana Sutta. Here a retreatant dwells contemplating the body in the body. Qui un meditante dimora contemplando il corpo nel corpo. Ardent, clearly comprehending, mindful. Ardente, con chiara comprensione, comprendendo chiaramente e consapevole. Having removed covetousness and discontent in regard to the world. Avendo rimosso la brama e lo scontento rispetto al mondo. One dwells contemplating feelings in feelings, ardent, clearly comprehending, mindful. Uno dimora contemplando le sensazioni nelle sensazioni, ardentemente, comprendendo chiaramente e consapevole. And again, having removed covetousness and discontent in regard to the world. Avendo rimosso la brama e lo scontento rispetto al mondo. One dwells contemplating the mind in the mind, ardent, clearly comprehending and mindful, having removed covetousness and discontent in regard to the world. Uno dimora contemplando la mente nella mente, ardente, con chiara comprensione e consapevole, avendo avendo rimosso la brama e lo scontento rispetto al mondo. And the fourth instruction is one dwells contemplating dhammas in dhammas, and by dhammas are meant certain phenomena, ardent, clearly comprehending and mindful, having removed covetousness and discontent in regard to the world. La quarta indicazione è uno dimora contemplando i dhamma nei dhamma, e con dhamma si intende fenomeni, ardente, comprendendo chiaramente, consapevole, avendo rimosso la brama e lo scontento rispetto al mondo. So that section from the Ambapani Sutta gives you the very, very gist of the Satipatthana instructions, and of course there are many more detailed instructions in the text. Quindi questo passo vi dà veramente il succo della Satipatthana Sutta, e ma naturalmente ci sono molti altri dettagli presenti nel testo. Now, in terms of the sitting meditation, when you sit down, try to find a comfortable posture, and then make sure you keep your body, your back as upright as possible. Close your eyes, and in the Mahasi tradition, try to focus your attention first of all onto the movements of the abdomen. So the rising movement of the abdomen and the falling movement of the abdomen. Per quanto riguarda la meditazione seduta, cercate una postura che sia confortevole. Cercate di mantenere la schiena il più possibile dritta, chiudete gli occhi e se nella tradizione Mahasi, portate l'attenzione sul movimento del salire e scendere dell'addome. When the rising movement of the abdomen occurs, briefly label that as rising, and then carefully observe that rising movement from its very beginning through its middle until its very end. Quando si verifica il movimento di salita dell'addome, notate mentalmente salire e osservate questo movimento dal suo inizio fino alla sua fine. And try to know its nature. By the word nature is meant trying to know the characteristica, the qualities, the features of that certain particular object. E mentre osservate, cercate di conoscere la natura dell'oggetto, quindi la natura del salire. E osservare, conoscere la natura, si intende conoscere quali sono le caratteristiche, le qualità, i tratti di questo movimento. Me. When the falling movement of the abdomen takes place, focus your attention on that falling movement. Try to, first of all, label it, and then try to observe it from start to finish, and once again, trying to know its nature. E quando si verifica il movimento dello scendere, in primo luogo notate scendere, seguite questo movimento dal suo inizio fino alla sua fine e nuovamente cercate di conoscerne la natura. while you're observing the rising and falling movement of the abdomen, it could happen that the mind wanders off, you remember something from the past, or the mind goes into planning or analyzing or whatever. Then take the wandering mind, now because it's the next most predominant object, take that as an object of observation, label it, observe it without getting lost in the content of the thoughts, and know its nature. When it subsides, go back to your rise and fall. E mentre osservate il salire e scendere dell'addome, può capitare che la mente ricordi qualcosa del passato, oppure che ci siano dei pensieri sul futuro, immaginazioni, pianificazioni e così via. E in quel caso, essendo questo l'oggetto che diventa predominante, rendete la mente che divaga il vostro oggetto primario, quindi notatela, osservatela e conoscetene la natura senza però entrare nel contenuto del pensiero. When the thinking has subsided, you go back to the observation of the rising falling movement of the abdomen, and while observing the primary object, should some pain somewhere in the body become predominant, then let go of the rise and fall and focus your attention on that predominant pain, label it, observe it, try to know its nature. Quando la mente che divaga cessa, quindi quando l'attività di pensiero finisce, riportate l'attenzione a salire e scendere. E se dopo un certo periodo di tempo sorge del dolore e diventa predominante, allora portate lì l'attenzione, etichettate, osservate e conoscete la natura di questo dolore, di questa sensazione. Should a mental object arise, such as a mental state like joy or happiness or restlessness, then you could also take that as an object of observation and then label it accordingly. So joy as joy, happiness as happiness, restlessness as restlessness, and then carefully observe the respective mental object and try to know its nature. E qualora si presentasse e sorgesse e diventasse dominante uno stato mentale, come ad esempio della gioia, dell'irrequietezza, allora potete scegliere questo stato mentale come oggetto di osservazione e quindi lo etichettate. Quindi etichettate la gioia come gioia, l'irrequietezza come irrequietezza, osservatelo e cercate di conoscerne la natura. The same thing goes for sense door impressions, so the seeing process, the hearing process, smelling process, and so on. E la stessa cosa per quanto riguarda le impressioni sensoriali, e quindi il processo del vedere, dell'udire, dell'odorare e così via. From the very beginning of your retreat, please try to work on improving, ever improving the continuity of your mindfulness. E fin dall'inizio del ritiro cercate di lavorare sul miglioramento della continuità della consapevolezza. More will be said about the sitting meditation tomorrow morning, starting 8 o'clock. And now just a few words about the walking meditation. Domani alle 8 del mattino parlerò di più, dirò più cose sulla meditazione seduta, e mentre adesso brevemente parlerò della meditazione camminata. When you walk from one place to another, or when you do formal walking meditation, then please try there too, do this with good mindfulness. So first, let's say, when lifting a foot, then be mindful, label that as lifting, and then carefully observe the lifting process and try to know its nature. The same thing goes for the forward movement, the same thing goes for the lowering and placing of the foot. Quando vi spostate, camminate da un luogo a un altro, così come quando praticate la meditazione camminata formale, cercate di farlo più consapevolmente possibile. E quando sollevate il piede, notate mentalmente sollevare o alzare e osservate il processo dell'alzare o sollevare il piede. E lo stesso conoscendo la natura, e lo stesso con l'avanzare e con l'appoggiare. Further details on the walking meditation will also be given tomorrow morning. E se domani mattina darò anche ulteriori dettagli anche sulla camminata. And then another major area are the many general activities that we engage in apart from formal sitting meditation, apart from formal walking meditation. And so this covers activities such as simple things such as waking up in the morning. So we try to bring mindfulness to that entire process. So tomorrow morning, please do check with which object does suddenly your mind, or to which object does your mind awake? Quindi l'altra area, l'altra grande area è quella di tutte le altre attività che compiamo durante una giornata, a parte la meditazione seduta e camminata formale. Quindi tutte quelle attività che compiamo, attività molto semplici come ad esempio svegliarci. Quindi domani mattina notate il processo quindi cerchiamo di portare la consapevolezza in tutte queste attività. E domani mattina osservate il processo dello svegliarvi e notate con che oggetto si sveglia la vostra mente. Now, obviously you won't stop. The mindfulness of general activities is not only limited to waking up, but to all the other activities that follow this. So the process of getting out of bed, the process of going to the bathroom, and suddenly then being mindful of activities such as taking a shower or wiping one's face, brushing the teeth, and so on and so forth. Naturalmente la consapevolezza nelle attività quotidiane non si ferma allo svegliarsi, ma si applica a tutte le attività che svolgiamo successivamente, quindi il processo dell'alzarsi dal letto, andare al bagno, fare la doccia, asciugarsi la faccia, lavarsi i denti e così via. And taking a meal from start to finish, from the point you come into the dining hall and you take your food and you walk over to your table in the dining hall and you sit down, you take the food, you get up from the table, all of these activities you want to do with mindfulness. E così quando prendiamo nostro pasto, cerchiamo di fare con consapevolezza tutte le azioni che sono coinvolte, quindi da quando facciamo la coda, prendiamo il vassoio, prendiamo il cibo, andiamo al nostro posto, ci sediamo, mangiamo, ci alziamo e così via. Quindi cerchiamo di fare tutti questi processi con consapevolezza. What else? Now, more more will be said on those sadhana general activities sadhana tomorrow. Maybe to add one or two more points here, in your general activities as well as your walking meditation, please try to perform all activities as slowly as possible. Slowing down is another way that helps to intensify our practice and also helps us to see more clearly what is certainly happening on a microscopic level. Dirò di più sulle attività generali sempre domani mattina, ma adesso vorrei sottolineare questo punto, sia nelle attività generali sia nella camminata, nel camminare, cercate di compiere le azioni nella maniera più lenta possibile, e rallentare è qualcosa che aiuta ad intensificare la pratica e a rendersi conto meglio, più nel dettaglio, di ciò che sta accadendo. And so also from the very beginning of your retreat, practice what is known as restraint of the senses. So even though we have eyes to see with and there might be interesting objects coming up here and there, try not to look around unnecessarily. If some obstacle is in your way, of course, take a look at it, but be mindful of it. E fin dall'inizio del ritiro praticate il contenimento dei sensi. Naturalmente abbiamo occhi per vedere, orecchie per udire, però cerchiamo di non andare a caccia di stimoli sensoriali inutilmente. E quindi se ad esempio c'è un ostacolo lungo il nostro cammino, lo osserviamo, ma con consapevolezza. The attitude with which we practice also makes a huge difference, and Jenny has already mentioned a few points, so we want to be patient with our own practice. We also want to be patient with regard to others. We want to practice consideration for our fellow retreatants, for the volunteers and staffers here at the center. We want to be diligent in our practice. Un'altra cosa che fa una grande differenza è l'atteggiamento, l'attitudine che abbiamo nella pratica. Gianni ha già menzionato alcuni punti, e quindi vogliamo praticare la pazienza con noi stessi e verso gli altri, considerazione verso gli altri, verso le persone dello staff, i volontari, pratichiamo con diligenza. Apart from those qualities, we also want to practice with an attitude of care and respect for our very own practice. That we do this, we do our own meditation, not in an easygoing way, in a sloppy way, but really considering our own practice as the most precious satya thing that we're doing right now, and satya then to do it wholeheartedly. E oltre a questo, un'altra cosa molto importante è di praticare con un'attitudine di cura e rispetto per la nostra stessa pratica, e quindi pratichiamo in un modo che non è rilassato o trasandato, ma veramente con la massima cura e rispetto per ciò che sta accadendo nel momento presente. Now, you've heard already so many instructions, do's and don'ts, certainly here at the center, and then the do's and don'ts in terms of the meditation practice, and that's certainly quite a lot, and certainly I hope that certainly you will, in the course of this retreat, put these things into practice and perform a miracle in the sense of keeping the mind relaxed and calm and balanced and not getting all uptight. Quindi avete già sentito molte istruzioni, molte cose da fare e da non fare rispetto al comportamento nel centro, rispetto alla pratica meditativa, e quindi a questo punto vi auguro di mettere bene in pratica e a frutto queste indicazioni e di compiere il miracolo di mantenere la mente rilassata e calma. In the course of this certain retreat, further aspects will be explained in detail, gradually, day by day. E lungo il ritiro altre cose saranno spiegate in maniera più estesa e nel dettaglio, man mano lungo i giorni. And allow me to conclude by wishing may this sudden retreat be a fruitful one for you in terms of your practice, and sudden may this retreat help you to see very clearly those three roots of all unwholesomeness, and in particular may this retreat help to promote, to develop the opposite qualities, namely of non-greed, of non-hatred and non-delusion. E ora permettetemi di augurarvi di avere un ritiro fruttuoso per quanto riguarda la pratica, e di durante questo ritiro vedere e riconoscere le tre radici non salutari, e in particolare di sviluppare le tre radici salutari, quindi la non brama, la non avversione e non illusione. May purity arise, may insight knowledge arise, and may may you realize Nibbana, and this is it. Che possa sorgere la purezza, che possa sorgere l'insight, e che possiate realizzare il Nibbana. Voilà. Mm-hmm.